strada corre via veloce sotto di me. Le luci della città si accendono e corrono via lontane dietro di me, come a coprirmi le spalle per difendermi. Sarà che a volte voglio scappare via, sarà che certe cose sono come veleno, la radio che passa la musica che ho amato tanto, mi strappa una lacrima. La vita è una fune che vuol fuggire via, e più la stringi e più ti brucia le mani. Sarà che non ho mai imparato stare senza te, sarà che non ho mai imparato a stare senza pensieri che durano il tempo di essere pensati, i fari che sembrano sguardi impauriti e fuggenti, e intanto quest'aria leggera che profuma di notte è in grado di unirmi. Tra me e me c'è sempre stata discromia, c'è sempre guerra e il vincitore non so chi è, ed i miei occhi aperti nella notte vedono molto di più di quello che so. Fermiamoci qui, come ha fatto il tempo sulla mia foto quando ero lì, mentre sognavo fissando il vuoto. La strada è così, ci corri un po' sopra ma intanto sei altrove, e questa notte incognita mi fa compagnia. Si avvicina ed io corro veloce, gocce di pioggia inaspettate e improvvise, le nuvole nere si confondono nel cielo e non ti accorgi che sono sopra di te. Raggiungere la meta non è mai stata mia priorità, il faccio al presente sono cardini fissi. Spostandomi sento di essere cambiato, di essere pronto. Quando ero bambino già sapevo, senza saperlo, che bisognava soltanto guardare le stelle. Questa è la notte in cui il tempo si è fermato, non è la pioggia che mi consumerà. Fermiamoci qui, come ha fatto il tempo sulla mia foto quando ero lì, mentre sognavo fissando il vuoto. La strada è così, ci corri un po' sopra ma intanto sei altrove, e questa notte incognita mi fa compagnia.